solleva molte perplessità il voler vanificare l'effetto e le finalità preventive di un sequestro attraverso un decreto legge. Il sequestro preventivo è stato emesso alla magistratura e tra l'altro confermato in sede di riesame sul presupposto della sussistenza di un attuale e concreto pericolo per la salute di un'intera collettività. Credere di superare questa situazione di pericolo, così come attestata da questi provvedimenti emessi da più organi giudicanti attraverso un provvedimento di legge, lascia evidentemente molto perplessi sul piano giuridico e sul piano del rispetto dei valori e dei beni costituzionali che sono in ballo in questa vicenda così complessa. Il ministro Clini ha, diciamo, obiettato che questo secondo sequestro e questi nuovi arresti in qualche modo hanno impedito quella bonifica che invece era stata avviata, a suo dire, e indicata dopo i primi arresti della scorsa estate. In realtà proprio questo sequestro dimostra che nei 4 mesi che sono trascorsi dalla emissione del decreto di sequestro preventivo, che ricordiamo che è del luglio scorso, non è stata fatta nessuna attività di bonifica né di messa in sicurezza a norma degli impianti. Anzi, l'azienda ha continuato a produrre esattamente come prima, nonostante l'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo. Tant'è vero che il sequestro dell'altro giorno è intervenuto su un ingente quantitativo di prodotto finito che è stato appunto lavorato a seguito della produzione avvenuta in questi 4 mesi in costanza di un provvedimento di sequestro. Questa credo che sia la vera problematica e la questione al momento. Chi vuole davvero salvaguardare e coniugare il giusto diritto al lavoro e il diritto alla salute ha oggi la responsabilità di investire i capitali necessari per mettere a norma l'impresa e l'azienda e lo stabilimento. Questo al momento l'azienda non ha dato seria dimostrazione di voler fare ciò.